6. Ascolta e controlla. 1. Aspetta un momento. Non aspettare un momento. 2. Telefona a casa. Non telefonare a casa. 3. Leggi questo articolo. Non leggere questo articolo. 4. Scrivi una email a Maria. Non scrivere una email a Maria. 5. Parti subito. Non partire subito. 6. Apri un conto corrente in banca. Non aprire un conto corrente in banca. 7. Spedisci questo pacco. Non spedire questo pacco. 8. Pulisci questo locale. Non pulire questo locale. 9. Sii sempre pessimista. Non essere sempre pessimista. 10. Abbi pazienza con lui. Non avere pazienza con lui.